sei un fascistello di merda. Ma che fascello, stava smetti, non dire cazzate. Sei ignorante come una capra. Esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella. Non vali un cazzo, sei un stronzetto mal cacato. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Bravissimo, ma che cazzo dici? Ottimo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto, mi volessi parlare per via dei cani. Prego. Pronto? Signora in diretta, vada pure. Pronto? Signora, la sentiamo. Che mi ascolti? L'ascolto. Pronto? Pronto? Mi ascolti? L'ascolto. Non si capisce. Pronto? Pronto? Via, vai, chiusa la trasmissione. Pronto? Mi ascolti? Vada pure. Ma con chi stai parlando? Ma mi senti o no, cazzo? Pronto? Non si capisce niente, però. Vabbè. Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono, allora fatti dare, dai. Io ti chiedo ancora, io ti chiedo ancora. E poi ancora gamba, Papa Lorenzo. Finalmente una persona di cultura abbiamo messo, Papa Lorenzo, una ancora persona gamba di cultura. Ancora la fila dei sapete, Papa Lorenzo. Una persona di cultura. Ancora finalmente non ha preso il Covid. Ancora non è morto del Covid, Papa Lorenzo. Ma vaffanculo, va. Posso, signor Brasile, consigliarle una cosa in questi giorni in cui sta tornando la seconda ondata del Covid? Sì. Il libro dei promessi sposi del grande Alessandro Manzoni, che lei sicuramente avrà almeno i coglioni. Come? Avrà almeno Alessandro sentito Alessandro Manzoni. Ancora Alessandro Manzoni. Che vuol dire? Chi c'è rotto i coglioni? Dai, vai. C'è l'episodio meraviglioso della peste, quando Renzo Tramaglino ha presente la storia, no? Renzo Tramaglino e Lucia Mona Lisa. No, caro, no, Lucia Mondè. Ma porca puttana, ma dai, non sa niente. No, dico, Renzo Tramaglino entra a Milano e si confronta con il grande tema della peste. E alla fine il Manzoni commenta quella pagina dicendo: il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Che ma tu lo sai, che la signora Tramaglini fa le pippe e i boccini a Palermo. No. La signora Tramaglini fa le pippe e i boccini. Sostanze stupefacenti, sostanze stupefacenti. Senti solo come pronuncia il termine, sto coglione de Gottardo. Più lo sento, più mi girano i coglioni. Oh, madonna, che testa di cazzo. Ma dove l'hai trovato, Luciano? Dove l'hai trovato, porca puttana? Devo dire che nei confronti dell'uomo mollemente adagiato su un letto ad Abano Terme, tal Alberto Gottardo, che saluto, applausi. C'è una specie di ribellione popolare per le sue posizioni contrarie alla legalizzazione della droga leggera. Incredibile. Cioè, il popolo di quelli che rendono le nostre strade, le nostre città insicure a causa della dici? Gente che guida in stato di incoscienza e alimenta lo spaccio di droga, mi devono solo che chiedere scusa. Ma altro quando che tu sei, a spada tratta e in maniera irrazionale contro la legalizzazione delle droghe leggere. Fossero sei quelli contro che si drogano, non ci sarebbe lo spaccio di droga, non ci sarebbe il narcotraffico, non ci sarebbe la camorra e la mafia. La camorra e la mafia sono alimentati da quelli che pippano il sabato sera, che si fumano i cannoni. E come li eliminiamo quelli? Quelli che pippano, quelli che rieducazione. Cioè quelli che pippano, quelli che si fanno le canne vanno rieducati. Certo, ti trovo positivo alla droga, tu sei completamente pazzo. Tu sei completamente pazzo. Ti tolgo il passaporto, ti tolgo i diritti civili. Cioè se ti becco con due canne ti licenzio. Così si elimina la prima droga. Abbiamo un nuovo zar della droga, ragazzi. Drogarsi, miei. Alberto Gottardo from Abano. Non è un diritto, lì nel suo cazzo di albergo. Libertà. Dai, su. In collegamento da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera cari amici, due notizie importanti. Sta parlando in questo momento il commissario Arcuri, che ma saluto e ringrazio per il lavoro svolto. Giù subito. Ringrazia e slap. Una cosa incredibile. Non possiamo abbassare la guardia. Ma beh, una cosa originale. Non possiamo abbassare una cosa originale, ha detto Arcuri. La curva si sta raffreddando, ma non possiamo abbassare la guardia. Ragazzi, Sei un Van Gogh della lingua, dà dei colpi di lingua come pennellate. È una cosa incredibile. È l'unico in Italia che pensa. L'unico in Italia che pensa che il signor Arcuri abbia fatto un buon lavoro. È l'unico in Italia. Arcuri, sì. Verranno fatti dei copy d'hotel in ogni provincia. Lui li costruirà. I copy d'hotel in ogni provincia. E tu ci credi? E tu ci credi? Gli alberghi chiusi. Dare soldi agli albergatori, usare gli alberghi chiusi, far lavorare gli albergatori. Sei un leccaculo del governo. Io lo dicevo fin dall'inizio. No, vergognati. Su questo il governo ha sbagliato, perché avrebbe dovuto mettere in campo Roma. Ragazzi, il personaggio del giorno però è un altro, sempre nel campo del complottismo. Non vi dico né nome né cognome, ma è una roba meravigliosa uscita sull'internet. Il vaccino conterrà, cioè avrà al suo interno luciferasi. Tra virgolette l'ha messo luciferasi, ovvero un enzima luminescente che può essere letto da uno smartphone per identificare chi ha ricevuto il vaccino e ha venduto anima e corpo al demonio. E chi non l'ha ricevuto, che se rifiuterà sarà un pericolo comunque. Ma perché? Il vaccino conterrà luciferasi. E in tutto questo campeggia un video, ragazzi. Un'immagine. Lele Mora, il grande ritorno dell'agente dei VIP. Lele Mora che fa firmare un contrattino. Pensate a chi? Di rappresentanza chi? Diventa l'agente? Beh, di non c'è Covid, la signora che è diventata virale, si chiama? Angela Chianiello, ma Lele Mora è il procuratore di questa? Senti. La gente. Qua e qua, poi la sigla per ogni pagina. Vai! Per i tagli degli occhiali, la nostra Angela firma il contrattino con me. Contrattino col signor Lele Mora, contrattino. No. Ok, adesso devi farlo. Le sigle su tutte le pagine, così. È come Icardi praticamente. Commuovelo. Ma per fare cosa? Poi il contrattino, cioè Lele Mora mette sotto contratto la donna di Palermo, Angela Chianiello, diventata famosa per Non c'è Covid, poi ospite dalla D'Urso, pare si sia pentita, poi ha fatto un video in cui erano tutti insieme senza mascherina, una cosa incredibile. Ma chi le pagherebbe questa? Ma chi le pagherebbe per fare cosa? Comunque è inutile che chiacchierate, questa è la democrazia, c'è la democrazia anche questa. Ma c'è la democrazia? La democrazia anche questa, certo. Ma la democrazia non c'entra la democrazia? La democrazia anche questa, come no? È la società dello spettacolo, se vai, non è la democrazia, che c'entra la democrazia? Dove c'è democrazia c'è showbiz, c'è lo spettacolo. Certo, dai, a proposito, è preoccupato Freccero. Mi informano che Freccero è molto preoccupato. Ho riflettuto molto a lungo in questi giorni. Una delle notizie drammatiche di queste ore, naturalmente, arriva dall'America, dalla Pfizer, naturalmente. Perché annuncia questa multinazionale, dove ho scoperto delle cose incredibili che poi vi dirò, naturalmente. Dice di aver scoperto il vaccino. Buono, è una notizia no? drammatica, naturalmente. Perché il vaccino vorrebbe dire ritrovare felicità, serenità, riaprire tutto, ascolti a picco, ecco il distruttore picco. Della televisione, sì, naturalmente. Sì, se si trova Gottardo, come in onda, dai, come si fa a mandare in televisione Gottardo? Dai, non ho capito, Carlo, la notizia è drammatica. Naturalmente è drammatico, trovare un vaccino vorrebbe dire finire la pandemia, naturalmente. Finire i morti, le terapie intensive, finire i servizi di Alessio Lasta, naturalmente, per Piazza Pulita. Certo, e tutto chiaro. Questo è drammatico, naturalmente. Allora io dico, troviamo subito un accordo con la Cina per il pipistrello, fare un accordo, un contratto biennale col pipistrello, naturalmente. Sotto contratto, al pipistrello. Subito ho detto al direttore Salini, sono andato alla RAI e ho detto vado in Cina, faccio subito un accordo biennale con più uno. Altro che Batman, altro che Batman. Ritrovare il pipistrello e naturalmente infestare di nuovo tutto il mondo. Naturalmente. E che ha detto? Che alla RAI hanno detto? Mi hanno cacciato, chiuso le, non mi fanno più entrare, naturalmente. Non riesco neanche a bussare alla porta. Ma come mai? Chissà come mai? Non hanno il senso dello spettacolo lì alla RAI. Appena gli ho detto lì, ero sulla porta, l'ho spiegato all'usciere e l'usciere ha detto: ma lei è matto! Come matto? È la televisione, dai, quale matto? Cioè, senza virus la televisione muore. Senza... Ritorna naturalmente il tenente Colombo, l'ispettore Derrick, naturalmente. Sì, talk show normale. Talk show con i virologi che discutono. Ma neanche più quei. No, adesso cominceranno a dire: ecco, il vaccino ha avuto effetto. Per forza, è un vaccino, dai, che discorso è? Ciao, noioso. Porro, ragazzi, porro. Poi parleremo del morto del Cardarelli, incredibile, il Cardarelli di Napoli. Ragazzi, diciamo la questa verità. È una brutta storia, come ha detto, diciamo, come ha detto la, al di là delle responsabilità, chi è come è morto, come non è morto, chi ha fatto il filmato, in un bagno, che lo rivendica, eccetera. Ma voi, adesso, in un diciamo bagno, la verità, l'ha detto, è bellissimo, però per Francesco è straordinaria quell'immagine, i morti, spero. Naturalmente. Si è esaltato di fronte a quell'immagine. Non si può dire naturalmente neanche cioè, alla RAI, perché sì. Quando ho detto alla RAI, naturalmente, che bisogna seguire la realtà. Mi hanno detto che è solo cinismo. Dunque, diretta da Cardarelli 24 ore su 24, con i morti in bagno, morti ovunque. Adesso, questo non si può naturalmente così esplicitare, naturalmente. un paese dove c'è Terence Hill che fa il prete, dai. Cioè, continuate. Cosa voleva da Cardarelli? Cosa voleva? Quel morto che rimanesse lì, naturalmente. Rimanesse lì almeno 24 ore. Naturalmente non posso intervenire su questo, mi hanno interdetto, naturalmente. Sì, però voglio dire, le telecamere dovevano essere ferme, immobili sul morto. Raccontare la realtà. La realtà con più telecamere, naturalmente, da più punti di vista. E il morto portarlo via o no? Il morto portarlo via o no? Adesso mi chiedete troppo, naturalmente. Lasciare lì il morto apposta 24 ore su 24. Comunque bisogna fare un accordo col pipistrello in Cina. Questo lo chiedo, naturalmente, a mani giunte. A Wuhan, bisogna andare a Wuhan, naturalmente. Fare ragazzi, un biennale. Un 2+1. Quello che si fa sempre un 2+1, naturalmente. Al di là di questo, la cosa incredibile è che è il Cardarelli, ragazzi, ditemi la verità, l'ha detto qualche giorno fa qui Briatore, ma voi se doveste scegliere andreste a fare visita al Cardarelli, a farvi ricoverare al Cardarelli? Diciamo la verità, David, tu ospedale israelitico a Roma, Cardarelli dove vai? Vabbè, no, ma io sto a Roma. Dove vai? No, ma lasciami, vabbè, dove vai? Stai a metà strada. Sei a Napoli. Dove vai? Dimmi la verità. Di corsa all'ospedale israelitico. A piedi. Ma non perché è israelitico, perché andrei anche al Policlinico Gemelli. Pur di non andare a Cardarelli. Senza nulla togliere, però vivo a Roma. Gottardo, metteresti mai piede al Cardarelli tu? Metteresti mai piede al Cardarelli? Perché? No, ragazzi, io ti giuro, mi faccio trasportare con l'elio ambulanza in un qualsiasi ospedale dell'Italia del Nord. Ti giuro, pago 20.000 euro un elio ambulanza, cioè, per evitare il Cardarelli. Quindi tu dici che sono degli stronzi, non tu lo so, dici ma non che ci sono vado. Gli stronzi, quelli che lavorano a non Cardarelli. Non lo so, ma non quindi. Ci no, qui non ho che detto è tutto questo. È una merda, non che non lo, va non tutto detto, bene. Non lo so, ma non ci vado. Vabbè, ma questa è prevenzione. Crucio, sai cosa fa più schifo della retorica di merda di Parenzo? Sentire Gottardo che fa il bacchettone sulla marijuana, ma vaffanculo. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Onore all'immenso ed eterno Duce d'Italia Benito Mussolini. Onore a noi, Elia camionista fascista. A Anzi, il professore di una scuola, Vittorio Emanuele II, liceo classico Vittorio Emanuele II, siamo in Emilia-Romagna. Ok. Scrive questo ai suoi studenti. Ora naturalmente viene a crocifisso, eccetera. Lui si chiama Matteo Cesaroni, insegna matematica e fisica, liceo delle scienze umane ed economico-sociale. Adesso vi leggo. A Iesi. Adesso viene crocifisso. Vediamo cosa ha scritto. Crocifisso. La mia proposta è questa: visto che è bel tempo, perché non venite seduti lungo il corso davanti alla scuola facendo didattica a distanza col cellulare per farvi sentire un po'? Che cavolo fate a casa da soli nella deprimente camera in cui c'è solitudine e non crescita in tutti i sensi? Lo so che non è facile, ma se ci organizziamo almeno un giorno per farsi sentire si può fare. Io chiamo un giornalista, così ci fa l'articolo. Questa storia del virus ha proprio rotto le scatole. Non c'è nessuna emergenza sanitaria. La TV racconta solo balle su balle. Muoiono persone di tumore e le classificano Covid. Negli ospedali vengono ammessi pazienti Covid con sintomi influenzali solo perché si prendono soldi per ogni paziente di quel tipo. Tutti i tamponi non servono altro. Tutti i tamponi non servono altro che a destabilizzare e a far credere che ci sia una pandemia, quando il tampone neanche distingue il tipo di virus SARS da un altro. Ora io dico a parte che dice la stessa cosa che dici tu, non è che dice cose molto diverse. Adesso ma neanche per idea. Non ho mai sostenuto che i medici prendono soldi, non ho mai detto che il virus non esiste. Ho sempre detto e solo detto che fino ai 70 anni statisticamente comunque, questo virus io, non io, comunque è grave. Va bene? Non è grave. Questo insegnante va difeso. Va difeso a spada tratta. Io lo difendo. È uno che la pensa in un certo modo, lo dice ai suoi studenti. Vanno difesi gli studenti da questo. Gli studenti, ma tu sei pazzo. Cazzo manda i messaggi agli studenti? Ma da quando i professori hanno i cellulari dei propri studenti? Deve esserci un filtro, c'è il preside, le decide il preside. Io non vorrò mai che i docenti chattino con le mie figlie. Che cazzo di mondo è? Al liceo ci alzavamo in piedi quando arrivavano i professori. Allora, il sottosegretario della salute, che si chiama Zampa, dice: manderemo l'esercito a Napoli. Manderemo l'esercito a Napoli, che è un mio vecchio sogno. Ma quello è la salute, per non deve mandare motivi, l'esercito, deve mandare gli infermieri, deve mandare i medici, non l'esercito. È vero che manderete l'esercito a Napoli, anche perché in serata il Premier Conte ha detto: noi siamo lo Stato e serve un segnale sulle criticità di Napoli. Sì, io credo che sia giusto assolutamente su Napoli e anche su tutti gli altri luoghi dove si vedono comportamenti non corrispondenti alle norme. Posso dire che l'esercito a Napoli io lo immaginavo per altre cose, per impedire alla gente di fare quello che si può fare, perché la gente che avete visto in giro a Napoli in questi giorni, per strada, in piazza, a lungomare, poteva fare quelle cose lì. Se decidono di vietarle, decidano di vietarle. Che cazzo c'entra l'esercito? L'esercito non c'entra una beniamata sega. Al limite decidete di chiudere la Campania, che è incredibilmente ancora zona gialla, oppure fate la provincia di Napoli zona rossa, fate quello che volete, ma che c'entra l'esercito? La gente esce perché può uscire. Dai, su. Una roba incredibile. L'esercito può servire ad aiutare a mettere delle... Poi sempre peraltro, il sottosegretario dice: se no, i vigili non fanno nulla, scusa, limiti, non fanno le limiti a persone per la cena di Natale. Dice: al massimo i parenti stretti. Questo è ovvio. Ma è ovvio, ma chi te l'ha detto? Che assembramenti vuoi fare purtroppo a Natale? Ma che ti devo dire? Ma per forza è... Ma mancano così. 40 giorni. Cerchiamo di essere realisti. Ma che sei il divino tema? Mancano 40 giorni. Nel bel mezzo della pandemia. Senti, tu devi dire, tu intanto dovresti chiedere scusa, perché i tuoi tre amici virologi così... Vai a fare in culo. Cioè, i tuoi tre amici, anzi, Zangrillo non è virologo, è un ottimo anestesista, ma non è virologo. Allora? Uno, Zangrillo ha fatto marcia indietro. Palù ha fatto marcia indietro. Palù, Bassetti ha fatto marcia indietro. Vai a sentire che cosa stanno dicendo in queste ore. Questi tre medici dicono che ora siamo nel pericolo. Libertà. Palù, libertà. Mi avete screditato per mesi e ora tutti dicono la stessa cosa. Chiedi scusa. Papa, lei ha annunciato un provvedimento specifico del governo per Natale. A che cosa state pensando? Limiti ai cenoni, agli inviti di parenti, stiamo pensando amici. A fare in modo che si mettano dei limiti sicuramente al numero, alla larghezza dell'incontro familiare. Certo, può essere la famiglia con i parenti di primo grado, credo che non si potrà andare oltre a questo. Cioè, praticamente io immagino la polizia o i carabinieri entrano dentro casa e dicono: scusi, lei che cos'è, il cugino? Ma che cos'è, il parente di secondo grado? Fase di dissuadere, andate a fare il culo! Adesso dici così, poi dopo a Natale dirai: ho sbagliato, come hai sbagliato. Ma io non ho detto nulla. In tutti questi mesi. Saviano, che non ha più un cazzo da dire, dice che Saviano ha scritto un bellissimo Meloni, libro, peraltro, che sto leggendo, per te sono molto tutti bello. Belli. No, per te, tutti Meloni e Salvini sono i maggiori responsabili della situazione di oggi. Meloni e Salvini, i maggiori responsabili. No. Allora, non lo so, buon ragazzi. Sono un bellissimo libro. Vabbè, ma chi se ne frega del libro? Ho capito, ma giudicato... non me ne fotte un cazzo a me del libro. I manuali vanno giudicati su tutto. Ma non me ne fotte una minchia del libro di Saviano, non è mai letto uno e me ne vanto. È un grande intellettuale, ha scritto un bellissimo libro. Ma chi se lo incula? Responsabile all'opposizione. Che fine ha fatto? Non era questo il terreno di Salvini, della Meloni? Se avessero avuto prudenza e intelligenza, oggi avrebbero in mano il paese come consenso. Cioè, se invece di urlare al regime sanitario, se invece di sposarsi a negazionismi più o meno legittimi, oggi potrebbero parlare. In realtà sono stati i maggiori responsabili di quello che sta accadendo, perché hanno sottovalutato tutto, hanno fatto credere che l'allarme fosse un'invenzione per rimanere in uno stato d'eccezione. Cioè, praticamente la colpa della situazione di adesso ha detto così, ha detto così, ha detto così. Ma è vero che in una fase loro hanno appoggiato, ma chi non ha organizzato un cazzo in questi sei mesi? Ma quello è il governo. Ma è vero che in una fase hanno appoggiato Asia Vercelli. Il no mascherine, queste cose qua. Asia Vercelli, dai. Salvini ha passato l'estate a togliersi la mascherina. Dai, Asia Vercelli, allora responsabile del virus, dell'esplosione del virus. Ma ti ricordi o no cosa faceva quest'estate Salvini? Sì, certo. Faceva i selfie e si toglieva la mascherina. Ma che c'entra con la diffusione del virus? Era l'unico che lo raccontava, il sottoscritto ai Nonda, che raccontava quelle immagini di Salvini che si toglieva la mascherina, mandando messaggi devastanti. Asia Vercelli, ha ragione Saviano, allora, bravo. Ciao ragazzi, mi mancava Alberto da salutare. Due cose avevo da dire. Intanto ieri sentivo la diretta e quei pochi istanti in cui Gottardo non dormiva ha avuto il coraggio di consigliare a una ragazza di andare dal dentista. Potremmo anche parlare di quanto fa schifo il suo sorriso, se volete. Vabbè, non è importante dentista. Adesso no, dal poi? Dentista non mi sembra. Poi? Ok, comunque volevo aggiungere a questo anche il discorso legato alle droghe leggere, soprattutto la marijuana. Tu ti fai le canne o no? Io sì, certo. E lo promuoverei, nel senso. Dunque, che sei una da rieducare, come dice Gottardo. Fermo un attimo, fermo, da rieducare, fermi. Chiaro. La zanzara. Se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Gottardo, è molto meglio essere una nave scuola che andare con una nave scuola. Viva le vergini, viva le inesperte. Allora, sono appena passata in una zona industriale di Carmagnola, perché ovviamente anche qua abbiamo le mignotte, quindi ci sono le mignotte per strada. Libere di esercitare la loro professione senza mascherina, senza niente, quindi niente, volevo solo chiedere al governo, quindi mi confermate che se vendo la figa posso agire liberamente senza dispositivi di protezione individuale, senza gel idroalcolico, senza disinfettanti, senza sto gran cazzo? No, perché se me lo confermate io da domani partirei e apro un sito per vendere la figa, perché magari così riusciamo a tirare avanti questo mese, no? Don't bring her down. WhatsApp di prima, scusate, fatemi risentire un attimo, che è molto interessante, fatemi risentire. Allora, sono appena passata nella, in una zona industriale di Carmagnola, perché ovviamente anche qua abbiamo le mignotte, quindi ci sono le mignotte per strada, libere di esercitare la loro professione, senza mascherina, senza niente, quindi niente, volevo solo chiedere al governo, quindi mi confermate che se vendo la figa posso agire liberamente, senza dispositivi di protezione individuale, senza gel idroalcolico, senza disinfettanti, senza sto gran cazzo? No, perché se me lo confermate io da domani partirei e apro un sito per vendere la figa, perché magari così riusciamo a tirare avanti questo mese, no? Ragazzi, io resto sempre a ieri, Per chi non lo conoscesse, ho detto anche CPC, culo palle cazzo. Il top del top. CPC ormai è entrato negli acronimi. CPC, caro Parenzo. CPC. Te lo farei assaggiare. Cassa, depositi e prestiti. No, e vorrei che tu, ripeto ancora una volta l'invito, vorrei che tu ti mettessi nella stessa posizione di CPC. Per subire il CPC. Sarebbe eccezionale. Faccio un appello a casa Parenzo. Ti prego, ma per carità, chiamala, non la disturberei mai. La signora, la Tania Ester dalla provincia di Milano, non so se conosce il CPC, Ester dalla provincia di Milano. Dimmi. Senta. Eccola. Come fa lei la sua radio a non registrare quello che dice lei? Perché quando noi facciamo il numero di telefono dice che per il decoro registra le nostre telefonate. Sai perché? Qui non c'è decoro. Perché lei, no, lei, l'educazione è una cosa, ma i brutti messaggi che lasciano, perché lei difende sempre tutti quelle persone, non grida, c'è da piangere, senti, lei difende tutte le persone che dicono che il virus non c'è, chi non lo conosce, tutte le cose più grosse che dicono, ho detto anche CPC, quello per le cazzo, uno 48 anni, Ester, senti, 80, senti. Io vorrei vedere lei al suo posto, lei vorrei vederlo, e vorrei che qualcuno, che qualche medico, che chissà quanti medici ma quella parla ha salvato e ha perso la vita, medici e personale come i volontari, tutto, per salvare il cafone come voi, che ne sentono di tutti i colori. E Sgarbi l'altra sera, martedì sera, c'era persino uno che prima faceva il politico, le dai a tiramai per dire sui tamponi chi, le dai a tiramai fino a mare, e allora poteva anche dire che c'era anche Hitler, no? Almeno mi faceva tacere voi, va bene, e ora che l'ha finita di continuare a mettere quei messaggi lì, perché la gente crepa, e crepa anche quelli che li curano, va bene, incoscienti. Aspetta. Ricavala, faccio sentire tutto, ricavala. Culo palle cazzo palle culo. Quando c'è voce, oh, mi sono rotto il cazzo dei pipponi di Ester su Sgarbi, poverina, sulla responsabilità. C'ha ragione. Quando c'è voce, oh, ma rotti i coglioni. Ester, quando sarà stata giovane, avrà scopato anche no, Ester. No, ma basta con questi pipponi di Ester. Aspetta, adesso io faccio sentire io. Aspetta, rimettetemelo in onda un attimo, signora Ester. Pronto? Ester, scusami un attimo, Ester. Sì. Adesso perché veramente mi hai fatto un pippone incredibile. Ma tu, aspetta, guardi, no, non mi telefoni più. No, tu lo sai che cos'è, lo sai cattiva, che cos'è il CPC. Ma però va fuori riga. Ester, lei lo sa. Non è, a parte che chiami tu. Lei ha il microfono, non può difendere tutti quelli che Esther, difendono, quelli che le dicono grosse. Tu lo sai, in tu lo lì. Sai che cosa. Oh Dio, di che gente. Palle! Ecco. Esther, lo sai che cos'è il CPC? Sai che cos'è il CPC? Senta, io non no, ma lo sai che cos'è il CPC? Lo sai no, o no? Me lo dica lei. Aspetta, te lo faccio sentire. Aspetta un attimo. Aspetta. Il mio famoso anal ringing, per chi non lo conoscesse. Ho detto anche CPC, culo palle cazzo. Ma va, ma va a dormire, va. Va a dormire, povero diavolo. Hai capito? CPC, culo palle cazzo. Capito, signora Esther? Così oppure è. Oppure cazzo palle culo. Oppure cazzo palle culo, la stessa cosa. Però si parte dall'alto, culo palle. Questo è CPC. Hai imparato una nuova parola, Esther, hai capito o no? Oh. Niente, abbassata, niente, scandalizzata, abbassata. Signor Brasile che dice: Esther, vai a fare il sugo, va, vai a fare il sugo. Ma perché? Ah, sì, signor Brasile numero uno. Grazie brasiliano, siamo qui, vai. Asia da Vercelli ci parlava delle droghe leggere, perché Gottardo ha veramente rotto il cazzo con queste droghe leggere, ha veramente rotto i coglioni. Guarda, quella volta che tua figlia inizierà a drogarsi ne riparliamo. Guarda, senti, mia figlia Giuseppe si facesse le canne non me ne fregherebbe un, posso dirti, non me ne fregherebbe un cazzo. Perché tu parti dalla presunzione che si fermi lì. Ma ho capito, ma e che vuol dire? Ma certo che non mi fa piacere orrende. Se si fa l'eroina, no? Succedono, ma che vuol dire? Delle cose, ma che ragionamento è? Ma hai tu sei uno di quelli che uno... faceva quell'altro, ma cosa nell'attico Vista Duomo, ma quello, Milano, ma quello con le andavano persone che maggiorenni che volevano con le drogarsi appena maggiorenni, e allora, appena maggiorenni, e allora, e allora se e non allora... ci fosse stata la droga le ragazze sarebbero rimaste lucide. Succedono certo delle cose no. orrende certo. sotto l'effetto del stupefacente. Ho capito, ma la cocaina quella era, mica erano le canne, era la cocaina. Sì, si chiama bene, cocaina, no, certo, ma certo. La conosci la differenza tra la cocaina e la marijuana? Sì, io a differenza tua ho fatto 15 anni di cronaca nera. Dai, io questo qui sembra i 3 anni di militare a Cuneo. Sembra i 3 anni di certo, Totò, dei militari certo. a Cuneo. Non rompere i coglioni, carino. Dai, Asia. Se avessi fatto anche ho tu, fatto 3 anni cose. Di militare a Cuneo. Asia, dimmi allora. No, senti Giuseppe, allora io secondo questo coglione bigotto sarei una fallita. Io lavoro da quando ho 18 no. anni, vivo da sola da quando ho 18 anni e studio all'università. Mi faccio un culo così tutto il giorno, quando arrivo a casa non posso fumarmi una canna, sennò sono una tossica. Ma di che cazzo stai parlando? Vai all'attacco, Asia, vai all'attacco che ti amo già, vai all'attacco. Amica da Vercelli, quella che non si fermano molti, non si fermano alla canna. Ma che molti, cazzo non dici? Parenzo, ma sai quante me ne sono passate canna. Davanti? Io, no, io mi sono fatto no, qualche canna, certo, questo è noto, è notorio. Qualche canna me la sono fatta e come, certo. Ma poi ti sei ancora, e te la non fai mi sono ancora. Mai, no, e adesso, te ne fai ancora. Ma saranno 10 anni che purtroppo. E te ne fai ancora. Ma figurati, lo direi, sono 10 anni. E te ne fai ancora. Non fumo neanche più, ancora. Ho smesso anche di fumare, figurati. E te ne fai ancora. Ho smesso di fumare che di bere il caffè per la gastrite, figurati. Concludi all'attacco, vai. Senti, il monopolio dello Stato va bene, lo sapevi che il certo, 32% certo dei consumatori di tabacco ne diventa dipendente, per quanto riguarda la marijuana soltanto il 9%. Vabbè, adesso non ti mettere a fare, non ti mettere a fare con noi i conti, vai da Barisoni a fare i conti che non ce ne fatto un cazzo. Filippo da Como, Filippo da Como, dai Filippo. Pronto? Dimmi Filippo, dimmi. Ah, mi senti bene? Bene, io ti volevo fare 2 domande. Dimmi. La prima è se Gottardo è tanto contro le droghe leggere, questo allora è fatto, se è fatto. Scusa? Questo è fatto come una zampogna, sicuramente. Sicuro, scusa, non ho sentito. No, dico, siccome tu sei fatto un po' come una zampogna, questo io immagino dalla voce. No, un po' no, io non so per niente fatto. Per no, niente. So, mi sembrava la voce un po' impastata. Comunque, vai, vai. Dimmi. Vabbè, perché sei sbagliato. Perché vai, dimmi, Filippo, dimmi. Allora, volevo dire prima: se Gottardo è così contro le droghe leggere, allora perché è d'accordo con la Meloni di fare il blocco navale? Perché la maggior parte di quelli che vendono droghe leggere e pesanti vengono dai barconi, come così come quelli sì, che portano. Ma sono manovalanza, perché sono manovalanza, ma poi il traffico, fermi tutti. Mi sembra una puttanata, Filippo, fermi tutti. La Zanzara. Sì. Gottardo, quanto mi fai girare il coglione quando fai le tue prediche da bigotto. E quello lì è un tossico perché ogni tanto si fuma l'erba e poi dici no, l'alcol non è una droga assolutamente. Infatti non si è mai sentito di un ubriaco che ha investito qualcuno in macchina, vero Gottardo? Ma poi detto da te che sei in una clinica per perdere peso, non riesci neanche a trattenerti di fronte a un tavolo e vai a rompere i coglioni alla gente che ogni tanto fuma uno spinello. Fai schifo, bigotto, grasso e brutto. Certo che Cruciani deve aver avuto proprio pietà di te. Fai schifo, Gottardo, fanculo. Il problema di far parlare il demone scimmia sulla droga è che, è come dire, sta parlando la persona sbagliata. Però vorrei dire questo a Gottardo: sei il manutengolo delle mafie. Tu sei il manutengolo delle mafie quando dici le cose assurde che dici sulle droghe leggere. Sei un idiota. Fai il gioco della criminalità. Sappilo. Ma gli idioti sono quelli che si drogano. Torneremo più avanti su questo argomento, legalizzazione delle droghe. Dai, lo sappiamo perfettamente. La merda è merda. Allora, ragazzi, c'è qualcosa che tiene insieme, c'è qualcosa che accomuna un professore molto famoso in questo periodo, in tempo di Covid, il direttore della clinica di malattie infettive all'università, all'ospedale di Genova, che si chiama Bassetti, che molti di voi conoscono, e David Parenzo. Che cosa che tiene in comune queste due persone? Sembra incredibile. David Parenzo e il professor Bassetti. Che, secondo te, Parenzo, cosa c'è in comune? Niente. Tu spesso hai attaccato il professor Bassetti dicendo che attaccato io Bassetti, ho detto semplicemente che nel fronte di quelli che vengono citati, sì, e mi dispiace per gli uomini di scienza, da quelli di destra, diciamo, sono i virologi che piacciono alla destra, perché purtroppo questo è, ma non si capisce perché, io lo dico, invece sono dei professionisti, cioè, diciamo, comunque, per semplificare, cosa... Bassetti, Zangrillo e Palù vengono citati dal centrodestra. E tant'è che Salvini dice va rivisto il comitato tecnico scientifico, va votato dal comunque Parlamento. C'è qualcosa che unisce David Parenzo e Matteo Bassetti. Sai che cos'è? Urbano Cairo. Perché ha scritto un libro, certo, ottimo libro. Bassetti, buonasera a lei. Un libro buonasera. Ottimo, peraltro fatto da un ottimo editore, questo possiamo dirlo senza letto che dite che è ottimo. Ci basta la cornice intanto. Una lezione da non dimenticare. Poi io questo volevo subito chiedere al professore. Lei, subito così andiamo dritti, non si sente in imbarazzo, grande professor Bassetti, al fatto che ormai ci sono i virologi lottizzati, cioè ci sono quelli che piacciono al centrodestra e quelli che piacciono alla maggioranza. È colpa sua, però, che c'entra? No, ma infatti lo chiedo a lui. Ma è ovvio che l'ha deciso lui. È imbarazzante per i politici, ovviamente. Però uno dice Zangrillo, l'ha detto Zangrillo, Bassetti, Palù. Cioè Salvini sempre dice l'ha detto Zangrillo, Bassetti, Palù. Ora, non, io sono contro la lottizzazione dei virologi. Contro. Perché il virologo, il medico è un medico, punto. La domanda di Parenzo è se si sente imbarazzato a essere nominato spesso dagli esponenti politici di centrodestra, Bassetti. Guardi, io mi sento imbarazzato da quelli che fanno critiche gratuite. Poi io esprimo il mio pensiero, le mie posizioni scientifiche che possono essere condivisibili o meno, perché la scienza è tutto tranne che una materia esatta, certo, e certo. Quindi io faccio le mie ipotesi, io lavoro in corsia tutti i giorni e da quando è iniziata questa epidemia e ho il mio modo di vedere le cose. Poi se piace a qualcuno, ben venga che gli piaccia, qualcun altro che non gli piace, che ci fosse un po' meno acredine nei confronti del sottoscritto, che negli ultimi giorni ha visto degli attacchi. Ma lei ha avuto anche minacce di morte, Bassetti? Ho avuto minacce di tutti i tipi, ho dovuto chiudere i profili dei miei figli, delle cose pazzesco. Veramente... Addirittura... anche Galli però, anche a Galli, dall'altra parte anche Galli ha ricevuto invettive, minacce... Ma che vuol dire chiudere i profili dei suoi figli? Cioè, secondo lei c'è bisogno addirittura, magari ci vuole una scorta, una cosa di questo tipo, no? Ha paura? Ma la scorta non lo so, io un po' di paura ce l'ho, perché sono dei personaggi che secondo me esagerano e estremizzano le posizioni in un momento in cui bisogna Ha paura di uscire da casa, non so come dire. No, paura di uscire da casa non ce l'ho, perché io vado sempre molto orgoglioso di quello che faccio, anche perché più di quello che ho fatto non so avrei perché diciamo la verità, scusi Bassetti, lei è accusato, la interrompo così chiariamo per gli ascoltatori, lei è accusato di essere praticamente uno di quelli che durante l'estate ha minimizzato e dunque sostanzialmente viene accusato, secondo me è una follia, di avere favorito questa seconda ondata. Ma come guardi, questa è l'accusa, è l'accusa che le viene fatta, io non la condivido, guardi, però l'accusa è questa. Sempre, allora, io ho sempre detto che bisognava mantenere il distanziamento, che bisognava usare le mascherine, che bisognava lavarsi le mani, ma ho anche sempre detto che con questo virus bisognava imparare a conviverci. Sì. Sono stato il primo, il 14 di aprile c'è una mia intervista con Mirta Merlino in cui ho detto: signori, impariamo a convivere, e oggi noi non abbiamo imparato a convivere, perché come stiamo vivendo in questo paese non si sta imparando a convivere, si sta facendo continuamente un terrorismo, perché il 90%, cioè terrorismo di che tipo? Ma terrorismo, perché lei non può considerare il 93% delle persone che sono fortunatamente poco sintomatiche o asintomatiche alla come delle persone uscite dal reattore nucleare di Cerno. No, però c'è chi dice, però c'è chi dice un'altra cosa, professore. Chiudendo la gente in casa, buttando la gente in quarantena, aspettando settimane, mesi per fare i tamponi. Sì. Questo è profondamente sbagliato, perché tra un anno, guardi, che ci troveremo tra un anno, che quando avremo il vaccino, quando, che questo sarà un virus come tanti altri. Chi ci avrà il SARS-CoV-2 sarà, per fortuna, avremo capito come gestirlo e non faremo. Lei sta dicendo che i test, lei sta continuando a dire, perché l'ha detto in un'intervista recente a Libero, che i test solo su tutti sono sbagliati, bisogna fare test solo sui sintomatici. Guarda, io dico, lei l'ha detto il 18 ottobre, test solo su sintomatici. Io dico che secondo me tra poche settimane troveremo questo paese che sarà completamente ingessato e fermo, perché è evidente che con questa circolazione di virus praticamente blinderemo in casa mezza Italia. E questo è negativo per lei? Beh, veda un po' lei, certo che è negativo. Chi, cioè, va è negativo per l'economia, è negativo per... Cioè, sarà... noi non possiamo fermare un paese, allora i test devono essere fatti sui sintomatici, sui contatti certi dei sintomatici, ma e non a cazzo di cane, lo posso usare questo termine, diciamo. Ecco, l'ha detto lei, la cosa migliore rimane la quarantena. Cioè, io ho dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria che oggi è evidentemente il SARS-CoV-2, me ne sto a casa mia. Poi, prima di uscire mi farò il tampone. Oggi invece cosa succede? Che la gente che ha i sintomi di SARS-CoV-2 inizia a telefonare alle ASL e le ASL sono in difficoltà, e quando arrivano a farmi il tampone, magari dopo una settimana, quando i sintomi magari sono già passati. Ecco, lei viene accusato anche di un'altra cosa, di aver della famosa, di una frase tra le diverse che ha detto, che è quella dell'affollamento provocato da panico. Anche Zangrillo è stato massacrato per questo, mentre guardi, se lei prende i dati, guardi, che non, cioè, i pronti soccorsi sono affollati per il panico, perché c'è una paura, o perché c'è un problema reale? I pronto soccorsi sono affollati perché c'è un problema reale, però di questa fetta che noi andiamo a vedere in ospedale, ormai la conosciamo tutti, codici gialli, codici verdi e codici rossi, noi abbiamo una quantità di codici verdi e codici gialli che sono una via di mezzo, che probabilmente con una medicina territoriale rinforzata avremmo potuto gestire. Cioè, quante persone guardi, la fetta consideriamo 50%. Che oggi, guardi, no, 50 no, però un 20-25% probabilmente intercettato precocemente con dei bei protocolli, con una medicina territoriale rinforzata, con delle strutture extra ospedaliere già fatte. Però lei stesso ha detto: oggi mi sono sbagliato, cioè mi sono sbagliato, allora, l'ho detto chiaramente, mi sono sbagliato nelle previsioni. Ho detto una cosa diversa, ho detto che le previsioni, sa, io non faccio l'astrologo, io non è il divino Telma, non è il divino. Ecco, no, io ho detto che mi sono sbagliato perché indubbiamente non avrei pensato che potesse arrivare una seconda ondata di queste proporzioni. Ma guardi, chi alla farina si è sbagliato, chi ha detto che arrivava una seconda ondata come quella della Spagnola con 50 milioni di morti. Perché allora dobbiamo guardare tutte e due. Allora lei mi deve rassicurare su due cose, però, in conclusione, Bassetti, perché lei è il mio punto di riferimento da quando è iniziata questa storia. Poi non l'ho mai chiamata perché queste cose qualche, non le faccio. Qualche dubbio me lo farei venire in testa. Ma su che cosa? Sul fatto che Cruciani dica: è il mio punto di riferimento. No, sì, di molti è punto di riferimento. Perché non è un allarmista. Non è mai stato uno che non vuole mettere terrore nelle persone. Perché c'è Galli chi mette terrore. Sì, io vedo Galli, posso dirti, ci sono approcci diversi al problema. Sì, sarà così, è una mia impressione, però l'impressione del comune cittadino è questa. Io personalmente vedo Galli e professor Bassetti, non dico quello che faccio. Vedo Bassetti, che tra l'altro dicono sia anche un'icona gay, io non lo so, ma che ha detto di essere eterosessuale, per cui, ma non c'è non niente di male. Non gli stai facendo un favore, secondo me. No, ma io vedo Bassetti Francesco, vedo Galli, dico che dondolo la testa così, tu dico, è sempre, allora, c'è sempre, dice delle cose, aleggia dietro la spada della morte, non nei suoi confronti naturalmente. Vedo Galli e vedo sopra, sai, la cosa, l'immagine della morte con la spada, con la cosa, ho capito, non è che questa Galli, vede Bassetti, che rappresentazione, ma la questa destra è la mia, che destra io non sono di destra, le destre, vede che roba, metto del cappello, io sarei terrorizzato, professore. Ma io ho detto semplicemente lottizzazione dei virologi, basta lottizzare i virologi. Senta Bassetti, al di là di non è storace, non è che devi nominare uno in consiglio d'amministrazione. Scusi, lei ha querelato, siccome i virologi sono querelati tra di loro, lei in questo periodo ha querelato qualcuno oltre a scrivere il libro? Guardi, io le posso dire, dovrei querelare talmente tanta gente che dovrei avere un pool di avvocati che lavora soltanto per me. Io in questo momento non ho voglia di querelare. Qualcuno dice che lei non dovrebbe nemmeno entrare a Milano perché dopo tutti i danni che ha combinato. Guardi, una signora, non la conosco, boh. Io non le nomino perché per me sono talmente piccole che non ho bisogno neanche di parlarne. Però quando si scrivono certe cose di professionisti che hanno dedicato gli ultimi 9 mesi della loro vita per i pazienti e per il sistema pubblico, secondo me ci si dovrebbe vergognare. Ma al di là di quello, ognuno è libero di esprimere. Lei non ha querelato nessuno, comunque. Siamo perché... in un paese libero, per cui. Ma sì, ma certo, ma assolutamente. Dire, ognuno è libero di esprimere. Ragazzi, io sono libero di vedere Galli in televisione, che mi metto le mani un po' così, e di guardare Bassetti, e non meno, diciamo, mi viene meno paura. Che devo fare? Io quello che le posso dire è questo. Io ho cercato sempre di avere una comunicazione pacata, per una semplice ragione. Quando io entro nella stanza di un paziente, questo glielo spiego da medico, e so di avere di fronte a me un paziente che ha un'infezione o che ha una malattia magari incurabile, non vado a dirgli che morirà sicuramente di quella malattia, perché sono certo che se anche avrà soltanto una piccola chance di risposta, se io lo deprimo dal punto di vista mentale, e quello questo dice, qua non avrà una risposta. Questo quindi, anche nella comunicazione generale, questo, diciamo, col nella paese. Nella comunicazione generale noi non possiamo dire alla gente che rimarremo sopraffatti da questo virus. Tutti quelli che dicono, per esempio, che ne so, che a Natale non si potrà cenare non più di 3-4 e solamente mi dica una cosa certa su questo. A me non me ne frega niente del cenone di Natale, posso dire sono ateo, non me ne può fregare di meno. Vabbè, quella è una roba atea, ma per dire no a assembramenti, allora, no, secondo sicuramente il Natale sarà diverso quest'anno, però sì, ma io questa credo cosa che qui che giusto. il sottosegretario della salute ha detto che solamente i parenti stretti, ma lei può dirci qualcosa in più o no? Io le posso dire questo, che secondo me il Natale per un paese come l'Italia è sacro, e quindi è giusto che a Natale ci sarà, con tutte le misure di sicurezza che possono esserci, le mascherine, i distanziamenti, è giusto che sia celebrato. Ma i cugini potranno venire secondo lei o no? Magari anziché fare cenoni da 30 persone faremo delle cene più ristrette. Vedi, la stessa cosa che dicono gli altri, uguale, la stessa cosa che ha detto la Zampa, uguale. Ma la Zampa ha detto solamente i parenti prossimi, ma ti sta detto. Dicendo anche lui la stessa cosa, scordiamoci le tavolate con 40 persone. Ma non ci può essere la polizia a guardare nelle singole case. Ma nessuno ha parlato di polizia, la Zampa, vede Bassetti. Le destre cosa fanno? Guardi, il problema importante qual è? Che noi dobbiamo sapere che con il nostro atteggiamento e con i nostri comportamenti possiamo portare appunto a casa anche questa. Ma quello è d'accordo, sì, esatto. Da solo. Sì. Per cui la gente deve sapere che non può interpretare il pensiero nostro a per esempio, a proposito, per concludere, la questione del sesso, che è molto importante. Io ci tengo molto in questa trasmissione, vabbè, come lei sa, se la segue. Allora, no, perché è molto importante. Ma senti, non segue la Zanzara, perché come uno no, la segue benissimo. La segue in macchina, si diverte, la disgusta come a me. Ma non anche è vero, sì, le fa schifo questa trasmissione. Bassetti, dica la verità. Io non vado in macchina perché vado sempre in scooter, però sono stato per anni un vostro grandissimo tifoso. No, non lo dica, siete veramente una non lo dica, professore, per piacere. Però adesso purtroppo andando in moto non mi riesco a sentire. Allora Bassetti, lei è uno scienziato, cioè, giustamente le fa schifo questa trasmissione, è venuto qua solo perché noi dobbiamo vendere copie del suo libro edito da Cairo, e io sono d'accordo con lei. Allora, anch'io però andrei, scusi, in una trasmissione Bassetti, così. Bassetti, io posso dire una cosa. Allora, molti dicono che non si può più scopare, cioè dire, io proprio utilizzo il linguaggio della Zanzara, con lei non me ne frega niente, cioè bisogna stare attenti, lasciamo perdere. Addirittura qualcuno dice che ci vuole l'onanismo. Pregliasco ha detto anche nella coppia, anche nella coppia l'onanismo, meglio l'onanismo perché non si sa uno chi incontra durante il giorno. Ora mi dia una parola definitiva. Io lei a prostitute ci andrebbe oggi? Perché molti su continuano questo, ad andarci. Allora, le dico una cosa, su questo non sono d'accordo, l'ho detto più volte. Secondo me, nell'ambito di una coppia è giusto continuare a fare sesso, perché in un momento triste come questo, almeno col sesso uno si può svagare. Ma senza quindi precauzioni di nessun tipo, senza con la propria moglie, il proprio compagno, la nulla, la nulla. Niente mascherine, niente distanze, non è niente. Un problema, si vive in casa, in famiglia, non è un problema. Certo che mi dispiace aver visto come un governo importante come quello del Canada ha detto che per andare a fare sesso bisogna mettersi la mascherina senza minimamente nominare il preservativo. Siamo andati indietro non di un anno, siamo andati indietro di 30 anni. Sì, più pericoloso il Covid, più pericoloso il Covid delle malattie infettive, della HIV o della sifilide, sì, o delle altre malattie, eccetera. Cioè noi siamo arrivati a questo paradosso. Però lei oggi, lei non ci va, andrebbe a prostitute o no oggi? Ma io non ci sono mai andato. Vabbè, ma ci andrebbe lei, ma non è un delitto andare a prostitute. Non lo so, se uno vuole andare a prostitute ci può andare, è evidente che se si parla di una prostituta bisognerebbe stare attenti perché potrebbe potenzialmente essere un... Cioè lei lo sconsiglierebbe? Ma no, ma lasci perdere la questione morale. Se andasse a prostitute è la cosa che gli consiglierei di usare il preservativo. E va, però diciamo non è che adesso perché c'è la pandemia uno deve bloccare il lavoro delle prostitute. Un'altra cosa, in un bar lei bacerebbe una persona, oggi non si può andare, d'accordo, no, ma una sconosciuta lei la bacerebbe oggi? Una sconosciuta io oggi non la bacerei, ecco, in questo momento francamente in un bar bravo, eviterei di farlo. Ma è ovvio. Cioè un incontro adesso, due persone, sì. Ti ha detto già di no, cioè, ti ha detto i rapporti già sessuali di no. In questo momento ha una sua vita, ma chi lo sta dicendo? Mica sta dicendo lui, con la sua famiglia, i rapporti sessuali cose, lei oggi li come dire, li contingenterebbe alla coppia, cioè no, alla coppia o comunque alla coppia stabile, non sì, è alla coppia stabile, alla certo, coppia stabile, cioè necessariamente marito o moglie, una coppia stabile, una fidanzata, una cioè compagna. Le cose casuali no, le cose casuali vanno evitate, diciamo in questo momento le cose casuali sarebbe meglio evitarle o comunque se si mi cade dovessero... mi cade pure lei, ma è ovvio, bassetto, ma non è che cade, dice delle cose di buon senso evidenti, delle cose evidenti, ma non si può rinunciare a queste robe qua, ovviamente, perché siamo in un momento in cui purtroppo in alcune città, ecco, in alcune regioni c'è veramente un'elevatissima circolazione di virus e quindi certo, francamente certo, oggi se io devo scegliere tra prendermi e non prendermi il Covid, al di là del fatto che oggi è gestibile, al di là del fatto che nel 93% però è meglio non prenderlo, è appunto non prenderlo, cioè esatto, ma sì, quello esatto, d'accordo che è meglio, ma dunque lei non è più dell'idea che ci vuole un minimo di immunità di gregge, proprio un minimo, guardi, l'immunità di gregge te lo spiego, allora, tanto per immunità di gregge si intende una controllata molto, controllata molto alta. Probabilmente ci sono alcune città e alcune zone, per esempio Nembro, la zona di dove Bergamo, c'è già, dove c'è non già. Dico che forse addirittura un'immunità di gregge, ma probabilmente un 30-40% della popolazione è venuto in contatto col virus e quindi probabilmente ancora degli anticorpi, ed è la ragione per cui se lei guarda la situazione oggi in Lombardia, a Milano soffrono, a Bergamo molto ma meno. Quante, scusi professore, secondo lei quante persone hanno in tutto ci sono oggi che hanno contagiato e hanno il virus in Italia? Secondo me 5-6 milioni. Secondo me siamo oltre i 10 milioni abbondanti. Oltre i 10 milioni. Quello che, è quello che ho detto sempre io. Parenzo, tu mi hai sempre attaccato. Oltre 10 milioni. Oltre guardi, 10 milioni. Ma, scusi, ma non andiamo lontano, perché se lei guarda i numeri della prima epidemia, eravamo intorno ai 300.000 e abbiamo detto che bisognava moltiplicare per 20. Sì. Quindi vuol dire che della prima epidemia abbiamo avuto circa 5-6 milioni, ed è quello che diceva l'Imperial College. E in questa seconda fase ne abbiamo ben 800.000. Già, se arriveremo a 20 milioni di infetti in Italia, no? Ma, probabilmente io spero di no. Spero che arriveremo a 60 milioni di vaccinati, perché vabbè, questo è quel tema su cui oggi dobbiamo lavorare. Vabbè, perché certo, noi non dimentichiamo, professore, che posso... viviamo in un paese di Novax, attenzione, che sono molto rappresentativi. Noi li intervistiamo ogni giorno, noi li intervistiamo ogni giorno qua. Scusi, professore, un'ultima cosa, ma lei all'ultima elezione per chi ha votato? Il segreto dell'urna. Io le ultime elezioni ho votato per il mio amico Giovanni Toti, perché se l'è meritato e perché si ah, per Toti, dunque, ha votato per Toti. Vabbè, ha votato il governatore, però in generale per il centrodestra, dunque, per il centrodestra. Ho capito, ma per il partito, perché ha votato. Non mettete cappelli sui virologi. No, ma non è niente di male. Non lottizzare ma perché, i virologi. I giornalisti non possono dire per chi votano, i medici certo, non possono dire per chi votano. Ma lui l'ha detto per Toti, ma io non è che perdo stima perché è un virologo dell'area del centrodestra. Non ma non è di area di centrodestra. Io non voglio che il centrodestra metta il cappello. Allora, mi faccia l'elenco guardi, dei voti che ha fatto nella sua vita, Bassetti. Io ho votato per Giovanni Toti, come ha votato per Giovanni Toti il 57% dei liguri, quindi voglio dire, vuol dire che in qualche modo. Ma come partito chi ha votato? Come partito? Ma partito ha votato il partito di Giovanni Toti. Forza Italia. Quindi. Vabbè. No, non è Forza Italia. No, non è più Forza Italia. Già, è vero, no, è la sua lista civica, è uscito vabbè, da Forza diciamo Italia. Io posso dirle con certezza che ho anche votato nella mia vita a sinistra, per cui per qualcuno che dice l'ho anche votato, io ho votato nella mia vita per Renzi. Però, per Renzi, per Renzi. Aspetti solo una cosa, bisogna rottamare il virus, però aspetti, volevo chiedere solo una cosa a loro. Salvini qualche settimana fa lanciò questa follia del rifare il comitato tecnico scientifico, cioè dice il Parlamento l'ha già detto che non ci vuole andare al comitato tecnico. No, non lui. lui, ma è una, secondo lei è giusto far votare i medici dal Parlamento? Cioè che ci sia, come dire, un mandato? Allora, secondo me quello che dovrebbe essere più trasparente sono i criteri di scelta del Comitato Tecnico Scientifico. Ah, quindi ha ragione Salvini a rimetterlo in discussione. No, dice. I criteri che non sono politici devono essere criteri scientifici. Senti, lei che voto dà Zangrillo per tutto quello che ha fatto? Secondo me Zangrillo è un ottimo medico. Cioè, che voto dà da 1 a 10? Che voto dà? Secondo me, nella gestione della pandemia, questo io gli do sicuramente almeno. Almeno? Secondo me è una persona preparata. Non ho sentito il voto. Non ho sentito 8, il voto. Almeno 8. 8. Almeno 8. Almeno 8. E invece a Crisanti, che voto dà? Ma Crisanti non è un medico, per cui voglio dire, ha gestito una parte, per cui bisogna stare molto attenti. Cioè, ma non è un po' arrogante Crisanti? Questa, ma sicuramente in alcune sue, ma forse siamo tutti un po' arroganti, perché poi ci vogliono anche disegnare un po' arroganti. Crisanti, che voto diamo? Più basso di Zangrillo? Ma Crisanti io non gli do un voto. Non gli do, senza voto. Grazie, senza a voto. Presto. Ciao, grazie, ciao, ciao, avanti tutta. Ciao. Saluti, caro, saluti. La Zanzara. Siamo sotto dittatura da parte di comunisti, culattoni, negri e musulmani. Ci può salvare un solo uomo, il generale Pappalardo. Eccellenza, sono ai suoi ordini e sono pronto a guidare uno dei battaglioni della sua armata. Io urlo la verità, @gmail.com. Massoni satanici e diabolici si mettono contro di noi per cercare di bloccarci, e c'è qualche massone satanico e diabolico della Lombardia che ha pensato addirittura di rubarci il nostro simbolo. Non andrete da nessuna parte, perché il movimento Gilea Arancioni sarà inesorabile. Il generale Pappalardo dice che saremo che saranno 1 milione di persone a Roma. Parlaci tu, Gottardo, appena squilla il telefono. Parlaci tu, parlaci tu, vagli diretto. Non dare l'impressione. Vai diretto. Perché tu sei il più affine a lui. Vai diretto, vai diretto. Tu sei massone e diabolico, allora. Il più affine a lui. Sul nuovo ordine mondiale. Quello tra noi. Sei quello tra noi più affine. Dai che lo sentiamo. Dai che lo sentiamo, beh. E subito dopo, alle ore 15, ci sarà una marea di gente. Quanti saremo? 1000, 10.000, 100.000 persone, 1 milione. Pronto? Pronto? Maurizio, provincia di Genova. Maurizio, provincia di Genova. Vai, Maurizio, dimmi. Pronto, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Ha fatto piacere sentire il professor Mazzetti, perché è uno dei pochi che tranquillizza le persone. Non ha un atteggiamento armistico. Ma certo, certo, certo, certo, è così. Ecco, io allora... Ragazzi, quando uno vede in televisione quello che dondola la testa, ma non tu, dice tu, cose, beh, dondola perché, perché, ma non lo so quello che è, perché, ma per carità, no, perché allora, ovviamente, e quindi non è una questione di metti le mani in tasca e ti tocchi allora, subito. Hanno detto, c'è non cose una drammatizzazione, così dissimili. Dai, cose non così dissimili. Sul Natale dicono la stessa cosa, ad esempio. Dite. Ma sul Natale che cosa vuoi dire adesso? Libera tutti, è chiaro che adesso dici questo. E perché non gliel'hai detto? E perché non gliel'hai detto lui? Ha detto meno persone possibili, d'accordo, per carità. Perché non gliel'hai detto? Ma allora, no, ma perché mi pare assurdo dire come ha detto la Zampa? Quello ha detto meno persone possibili. Curva, la Zampa dice solamente momento, i parenti stretti, ma sì, di primo grado, ha detto, devi mettere. Dai. O capisci il momento nel quale siamo, oppure continui a dire che va tutto, dimmi, bene. Dimmi. Chi era prima? Chi stava parlando prima? Chi parlava? Maurizio, dimmi, Maurizio, dimmi. Ascoltami, su Bassetti aggiungerei anche un tema. E lo aggiungo, e lo dico a voi perché siete nella, diciamo, nella posizione di poter eventualmente prendere qualche informazione in più. Avete citato il professor Falù e non so se avete citato il professor Scoglio. Comunque, quello che vi voglio dire è, pare che i tamponi molte volte risultano dei falsi positivi. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che uno è asintomatico, in quel momento non avverte nessun tipo di sintomo, fa il tampone e il tampone risulta positivo, ok? Quindi automaticamente ci sono tutta una ma il tema non è questo, il tema è che anche il professor Palù, che viene sempre citato a sproposito, vabbè. Marco da Milano, no, no, dice no, no, le rianimazioni sono piene, gli anestesisti hanno bisogno di aiuto, questo è il tema. Marco da Milano, dimmi. Vai Marco, dimmi. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Sono Matteo da Venezia, no Marco da Milano. Che cazzo ne so, qui c'è scritto Marco da Milano, io chiamo Marco da Milano e mi mettono Matteo dalla provincia di Venezia, va benissimo. Matteo, dimmi. Sì. Dimmi Marco, no, dimmi, volevo Matteo, dire dimmi. Una cosa velocissima, in riferimento a quanto ha detto il dottor Bassetti prima, sì. Il dottor che stimo tantissimo, però ha detto una cazzata. Cioè su che cosa? Spiegami. Tu hai fatto una domanda e hai detto sconsiglierebbe di baciare una ragazza al bar e lui ha detto in questo momento sì, a parte che non quindi, si può andare nei bar, c'è cioè una sconosciuta, una sconosciuta. Bar, però fino alle 18 si può andare nei bar, ma la domanda è questa, quindi adesso è vietato innamorarsi? No, ma infatti per me è una cazzata. Perché io l'ho detto. Ma bisogna avere un po' di intelligenza. No, ma non c'è nessun problema. Ma di fronte al fatto che ti piace Dante. Una e te la vuoi limonare, che cazzo di intelligenza devi avere? Ma bisogna capire la questione. Ma perché muove il sole e tutte le altre stelle. Se a me mi piace una e mi innamoro, io ci limono e la bacio. E certo, non è che gli chiedi prima se ha fatto il testo. Ma nessuno ha detto che è finito l'amore, nessuno ha detto una stupidaggine simile. Si banalizza una discussione se si mette in questi termini. Perché non è un caso di scuola, è un caso idiota, no. È ovvio che se uno si innamora, è una stupidaggine, allora, e ogni coppia prenderà le proprie precauzioni. Prima di scopare una ragazza si bacia, o sbaglio? Beh, oddio, può anche capitare che non si baci uno. Succede anche, spesso succede. Un esempio stupido non vuol dire niente. Quando una persona si innamora, le prime cose sono la se vai a puttana, se vai a puttana la scopi. Senza magari limonarla, esatto, però bravo. Se vai in un bar e conosci una ragazza o una persona, Matteo, hai perfettamente ragione. Che funziona molto così, però uno entra in un bar, ma non è che uno entra in un bar, vede uno e la bacia. Cioè, come che no, mondo succede, vive lei? Succede, ma quando mai? Succede, ma in succede. Che mondo vivete? Ma che cazzo dici? Ma in che mondo vivete? Ma poi voi? Vi sembra ma un esempio da fare sul COVID? In un bar, in un locale, di trovare una. E di berci due o tre cose a fine serata di limonarla. Ma e va, poi ma miliardi di volte ci succede, dai, allora, su, ma ragazzi. Allora, ma certo. E allora, che diciamo? Lì ha detto una cazzata. Ma certo, secondo me pure ha detto una stupidaggine. Ha detto che, ma lo deve dire forse per senso di responsabilità, che in questo momento gli incontri casuali vanno evitati, cioè che non bacerebbe una persona che non conosce. Per me è una follia, che ti devo dire? Cioè, per me è una pura follia. Ciao Matteo, ciao. Fabrizio da Ravenna, vai Fabrizio da Ravenna. Dimmi, ciao Fabrizio. Cruciani. Dimmi. Ciao caro. Allora, sono incazzatissimo perché tutte le volte che esprimo il mio parere sul discorso del lockdown, delle chiusure, no? Ecco, mi devo sempre sentir dire che sei un responsabile, un incosciente, un testa di cazzo, semplicemente perché ritengo che non conti un cazzo di niente. Quello che stiamo, le restrizioni che stiamo vivendo adesso, che ci stanno imponendo. In che senso, scusa? Non ho capito, Fabrizio. Cerca di fare un discorso razionale, che già non ci capisco un cazzo. Dai, forza, dimmi. Che vuol dire che è privo di senso? Mettimi giù un argomento. È privo di senso non circolare da mezzanotte alle 6 della mattina, cazzo. Io lavoro tutta la settimana, la domenica alle 4, alle 3. Io di solito prendo su e vado a pesca in mare e non lo posso fare perché se circolo alle 4 di mattina vado a fare l'assembramento. Sono stronzate. Sì, vabbè, ma quello è un modo per limitare la circolazione delle persone la notte. Sì, per alle dire. 4 di mattina, infatti. infatti si fanno dei grandissimi assembramenti alle 4 di chiaramente mattina. È una puttanata, è un modo per dire che l'Italia sta ferma di notte, non si muove di notte, eppure per me è una puttanata, infatti alla fine lo stanno allargando ad altri. Ma perché dire dalle 22 in poi non si circola è una puttanata, no? È un modo per ridurre le persone in giro, ma che vuol dire? Ma ogni norma può essere vista ma come una stupidaggine. Locali, chiudi locali. Il senso di tutto è girate, l'ha detto anche Bassetti, te l'ha spiegato anche Bassetti, non vuoi sentirlo dire da me, risenti di quello che ha detto Bassetti, che ti ha detto in una fase come questa, dove indubbiamente c'è una crescita, indubbiamente siamo in un momento critico, bisogna ridurre tutti questi momenti di socialità. Beh, no, capito, e di questo ti sta dicendo Fabrizio, che alle 4 di mattina non c'è nessuno, però. Ma quello è ovvio, manca alle 5 del mattino non c'è nessuno, che cazzo vuol dire? Ma anche durante l'anno alle 5 del mattino non c'è Fabrizio, nessuno, che dimmi, cazzo allora vuol dire? Perché è un genio. Questo. Sono dei messaggi che non hanno un senso. Come trombare la sconosciuta, ma vaffanculo, ma trovo una che mi piace la trombo, cioè, che discorsi sono? Ma giù, Fabrizio, è così, la realtà è questa, ma nessuno si sottrae di fronte a questa cosa, nessuno si sottrae. No, guarda, però dico, quando dici, capito, che tu fai il camionista, fai oggi il camionista, tu che fai? No, io ho una piccola industria chimica, sono un imprenditore del ramo della chimica industriale. Giustamente, se vuoi trombare qualche mignotto, vuoi trombare qualcuno che conosci, la trombi e te ne fotti, non è che gli chiedi vai a puttane te ogni tanto. Ma sì, ma tanto, ascolta, vai a puttane o no? Vai a puttane o no? No, ho smesso da un po' di tempo. Ma come dire, sei uno che ha più partner, non hai una compagna fissa. No, io sono sposato. Però ogni tanto qualche trombata te la fai, diciamo. Guarda, ti dico la verità. Sai perché non la faccio? Non perché non la desidero, perché metto sul piatto della bilancia che cosa posso perdere se mi becca la moglie, siccome ci tengo a mia moglie, perché per me è una grandissima risorsa, sì. E allora evito la però a puttane ci sei andato anche quando eri sposato? Sì, alla stragrande. Gliel'hai detto a tua moglie? Lo sa tua moglie? Ma sì, allora, non me l'ha mai chiesto, anche perché dopo sa che se me lo chiede io dopo non le racconto una bugia, gli dico la verità. Hai allora capito? Posso dirti, Fabrizio, però è stato puttane, non è un uomo vero, non è a 360 gradi. Bravo, uno che non è mai andato a puttane non è un uomo vero, no, a 360 gradi. No, non esiste, non esiste. Parenzo, per esempio, Gottardo, allora non sono mai andati a puttane, siete ominicchi, ma perché così ominicchi? Se non hai provato non hai provato una puttana non sei un uomo vero, ragazzi, dai, su. Ma che roba è questa? Ma per forza, una volta, ma per una volta, ma anche per una sorta di esperienza, per una volta una puttana la devi provare. Ma a me ripugna a pagare per far l'amore, a me ripugna. Bravo, esatto. Mica sono tutte uguali le puttane, quindi magari avere un minimo di esperienza sul sesso a pagamento è fondamentale. Sì, fondamentale. Ma fondamentale anche, per cosa? Ma è degradante, degradante. Con molta dare più libertà lo vivi, Con molta più libertà. Ha ragione perché, Fabrizio. Perché affitti la vagina di una. Non devi mentire, non sei falso, non devi far finta che ti piace anche dopo che sei venuto, che non te ne frega più un cazzo. No, hai capito? Cioè, qual è il senso? Non ho capito. Non qual è so. Il senso, Fabrizio? Dimmi. Cioè, il senso, la vera bellezza bestia, di andare a puttane. Qual è? È veramente una bestia, questo qua. Qual è la bellezza? È vivere il sesso in completa libertà, perché nel momento in cui ho voglia di trombare, trombo. Poi, una volta che mi sono tirato sulle braghe, sono pari con tutti. E non devo far finta che mi piace star lì ancora mezz'ora, un'ora, perché tanto abbiamo fatto l'amore. Cioè, non è così. Fabrizio, sei il numero uno della realtà, diciamo il cinismo della realtà. Il cinismo delle porcherie. La realtà è questa. La cosa più interessante, per fortuna, non è questa. La cosa più interessante, però, di Fabrizio è un'altra, che lui sostiene, poi non lo so, dobbiamo credergli, che lui non va a puttane, non tradisce la moglie. Perché ci tiene al rapporto e non vuole che il rapporto sia minato da un suo tradimento. Però posso dirti una cosa, Fabrizio, se tu senti ogni tanto l'attrazione irresistibile e la sentirai verso una bella figa, verso una persona, non so, magari, certo, verso uno normale, sì, non sei, diciamo, Gottardo, non sei Parenzo, diciamo, no, per carità, non sono un vecchio baghettoner telesperotico. Però scusate, esatto, vorrei mettere solo in chiaro una cosa, c'ho l'ormone vivo, vivace, non è che io diciamo, in questi 10 anni sia stato chiuso in un convento, in una clausura e non abbia l'ormone anch'io. A differenza vostra, uno, non metto in piazza quello che faccio, due, non mi faccio urinare in faccia, tre, non faccio lo schiavo di nessuno, quattro soprattutto, non faccio scambi di coppia portando la mia compagna con altre 12 persone. Se tutto questo per voi è essere un bacchettone, allora sì, viva Dio, sono un bacchettone. Aspetta Fabrizio, però io ti devo dire una cosa, siccome abbiamo di nuovo collegata qui dopo il grande successo dei giorni scorsi, sì, Sabrina Escort, autrice del CPC. Ma perché cara Sabrina, ci sei? Eccoci porcherie qua. Inaudite. Sabrina, porcherie. Ci sei? Sabrina? Sì. Eccoci qui. Allora, poi per favore. Ma chi è il mio detrattore lì che sentivo ieri lontanamente? Cioè? Parenzo, si chiama Parenzo. Parenzo. Allora, posso dire. Detrattore, di Parenzo. Dico solo, signora, che queste sue porcherie le potrebbe raccontare in privato e non in pubblico. No, tutto io invece qua. Voglio che le racconti Mamma, in pubblico. Se mi è stato chiesto, siccome non mi vergogno di quello che faccio, non ho problemi, ci metto la faccia. Brava. I cazzi. Allora, Sabrina, vuoi spiegare a Fabrizio da Ravenna, esatto, che è un grande appunto Stimatore del mondo escort, anche se dice di non andarci più perché la moglie, che cos'è il CPC? Spiegaglielo chiaramente. CPC, chi piace essere stuzzicato più o meno profondamente, sì, con la lingua nel suo orifizio, insomma nel culo. Nel culo, dunque sì, si parte dal culo, dunque la prima ma è un'arte, non è, c'è modo e modo di leccare il culo, come di fare il pompino, non è che sono tutti uguali. Dunque, ce lo CPC devi provare, sta non puoi per dire. CPC sta per culo palle cazzo. Per culo palle cazzo. Perché faccio la passata con la lingua e mi soffermo un po', cioè io contemporaneamente, sì, sia quando ti lecco il culo, sì, e ti stuzzico il glande, il prepuzio, cioè le palle con le unghie, ecco, con le mani. Ecco, cioè, però scusami Sabrina, ho visto dalle immagini che praticamente la posizione del maschio deve essere supina con un cuscino sotto, in modo che la, diciamo che, la, che tutto il pallame, sì, col COVID fuoriesca fuori. La pronazione è come nel COVID praticamente. Allora? Diciamo che questa posizione rende meglio per massaggiare nello stesso tempo, mentre infilo la lingua nel culo, col, sì, mento, io col passaggio che faccio spingo il perineo. Ma cos'è Totò? O ancora cos'è non niente, perino o perineo, mi sbaglio sempre. Ma che è così. Mento ha? Fabrizio, hai capito qual è la tecnica? Il massaggio, insomma, mentre io infilo la lingua nel culo, faccio anche il massaggio. Abbiamo capito benissimo. Fabrizio, hai capito qual è la situazione? Guarda che quando io facevo il CPC, la Sabrina portava ancora il grembiulino dell'elementare, ok? Addirittura adesso il CPC fatto da Sabrina non è una cosa così, non è una cosa così antica, non ti preoccupare. Vabbè, però ti posso garantire che sui lettini spiaggia al mare d'estate. Quanti anni hai? Ne ho compiuti 60 la settimana scorsa. Beh, allora sei molto più grande di me. Comunque, io, guarda, il CPC. Ho fatto l'ultima edizione di Colpo Grosso. L'ultima. Comunque, poi ragazzi, c'è stato un inglese. Fabrizio. Mi facevo dei pugnettoni con un colpo grosso che non hai un'idea. Fermi tutti. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. A Brasile, ma poi fa tanto il sindaco di Pietralata, ma intanto gira voce che sei nata più all'unculo da Alessia Nobile. Che finaccia. La Zanzara. Buonasera a tutti, io vorrei sapere che cazzo di problemi c'ha il signor Gottardo con le ragazze che pesano sugli 80 kg, che molte volte sono le più porche a letto. Grazie. Fino a ieri stavo con un'ucraina, 54 anni, piedi fantastici, schiava a letto, rimming, dip trot. Aveva un difetto, tutte le sere mi chiamava alle 6.35 e non la smetteva di parlare. Un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, poi a un certo punto mi ha cagato cazzo. L'ho mandato a fare in culo. I love my radio. Let's get pronto? Allora ragazzi, qui ho davanti a me un libro che vi invito a non comprare. Si dice sempre così: vi invito a non comprare. Nella maniera più assoluta, dovete comprare solo un libro in questo periodo, che si chiama Nudi, che è edito dalla Nave di Teseo e soprattutto scritto dal sottoscritto. Mamma però qui ho di fronte, ho di fronte un libro pazzesco, che vi invito a non comprare. Ma cosa si fa? I romanzi, ma dai, romanzi romanzo morto, naturalmente morto, dai romanzi, morto. Ma come si fa a scrivere un romanzo? Scusi Freccero, come cazzo si fa a scrivere? I romanzi sono morti, naturalmente, poi scritti da uomini di televisione che hanno fatto televisione. Non so di chi lei stia parlando. Naturalmente l'ultimo romanzo che ho letto è Crétin de Troyes. Naturalmente chi cazzo è? Come chi cazzo è? Un scrittore provenzale. Non sai chi cazzo è Crétin de Troyes? No, non lo so. Crétin de Troyes, non lo so chi è. Il cavaliere della tavola rotonda. Ma lei che pensa dei romanzi? Lei legge romanzi? Ma veramente non sai chi è Crétin de Troyes? Ma sì, non lo so chi è. Perché ti occupi solo di cazzi e di culi da anni ormai. Non ti ricordi chi è? Di Parfis. Di Parfis. Scusi, ma vedi che anche lei leggerebbe mai un romanzo? Lei leggerebbe mai un romanzo di Luca Bizzarri? Lei leggerebbe mai un romanzo di Luca Bizzarri? Luca Bizzarri naturalmente ha fatto una cosa terribile, ha mandato un libro alla moglie di Parenzo, naturalmente, pure, con una dedica molto equivoca, naturalmente. Come molto equivoca? Si dica che si farebbe la moglie di Parenzo? No, questo non lo so adesso. Qual era la dedica equivoca? Non lo so. Naturalmente, glielo chiedo naturalmente. Luca Bizzarri con molto noi, buonasera. Evviva, evviva, evviva, evviva. Sì, gliel'ho mandato e da Dani l'ha anche ricevuto con grande gioia. Adesso la dedica, la ricorda capire, che insomma, cosa hai scritto, amico caro? Ho ricorda. Scritto: ti penso sempre e sempre penso perché. Perché? Appunto, è uno dice perché. Esatto, uno dice perché. Che i signori perché? Di Libero, i signori di Libero, a un certo, i signori di Libero, dramma a casa Parenzo. Ma quale dramma? Bizzarri ha mandato un libro, che cazzo se ne frega, cioè, voglio dire. Però è straordinaria questa cosa, Parenzo. Perché effettivamente una gran parte di questo paese si chiede perché? Come perché? Mai? Come, cosa può Abbiamo essere successo? Due domande, una sulla moglie di Parenzo e una sulla moglie di Adinolfi, è la stessa domanda. Sì, esatto, bravo. Perché la moglie di Adinolfi oggettivamente è una gran figa, se uno la guarda sono così. Due perché, sono due perché, è vero. Sono due perché. Però il mio però perché forse è un po' più piccolo dell'altro. È più drammatico, diciamo, il perché della moglie di Adinolfi, posso dire la verità. È un po' più accentuato il perché, è un po' più forte. Perché in fin dei conti, Parenzo è. Oddio, anche Adinolfi è simpatico, non è che sia antipatico. Ma vaffanculo, cioè, no. Però insomma, se uno mette a fianco la moglie di Adinolfi e Adinolfi, diciamo, c'è qualcosa che uno si domanda veramente perché, cosa può essere successo. Ma non è il tema del libro di Bizzarri, però credo che se non l'abbiamo chiamato per quello parlare è un romanzo, mia moglie. Ma quello è un romanzo, che dobbiamo dire del romanzo? Non bisogna comprarlo il mio libro, non, bisogna no, la cosa è, non bisogna comprarlo. Mondadori, culo facido. No, ma infatti hai scritto un romanzo per la Mondadori che costa 52 euro, ma come cazzo si fa a far pagare un romanzo 52? 52 euro il libro, cioè che cosa c'è dentro? L'oro di Dondo. È lo stesso giochetto, giochetto che ha fatto con me questo stronzo, capito? Cioè. Vorrei far notare che tu a casa ce n'hai una copia grande. Comunque, se non allora la sta divorando, lo metto in banca. Lo metto in secondo banca. Me, se, posso dire una cosa? Che secondo me Natania, adesso lo dico, mi insulterà. No, letto, secondo letto. Me, ogni tanto pensando a Bizzarri, pensando a Bizzarri, ma adesso io questo fa, sarebbe, fa muovere, un grande onore. Fa muovere, le, di, onore. Fa muovere le dita. Questo, fa muovere questo, le dita. Questo sarebbe un grande onore. Io voglio sarebbe capire da Luca, che io non capisco perché uno. Vabbè, lasciamo perdere i motivi per cui uno si mette a scrivere un romanzo. Perché di solito uno scrive un romanzo quando non ha un cazzo da fare, ma quella continua ad andare in televisione eccetera, però lasciamo perdere, è una cosa che non dovete comprare, che ha come titolo però Disturbo della pubblica quiete, che è un po' la fotografia della zanzara, però esatto, non vorrei esatto, mi sono ispirato ti sei ispirato alla zanzara, va bene, leggete questa roba qua, però leggete. Tu sei però sempre perché 50 euro veramente, cioè è un prezzo forse un po' fuori mercato di dico, però no, non lo so, chiedo perché li vale. Scusami un attimo, però io ho una domanda che ho sempre voluto farti, è un po' di tempo che non parliamo di queste cose, Luca. Ma tu, ma scontato costa 45, questa è la domanda che volevi fare. No? Ah, scusami, scusami. Sei geloso o no tu nella vita? Cioè, sei geloso? Del cane sono geloso. Cioè, tu ormai vivi da eremita da un sacco di tempo. Cioè, sei stato un grande cacciafighe nella storia. Vabbè, cioè, adesso un grande amante della figlia. È un comico, intellettuale. Ma intellettuale non esageriamo. Se gli dici intellettuale ti spara. Ti prego, non ti fare definire intellettuale da Parenzo. Lui è il ghostwriter di Calenda. Cioè ha fatto tante cose nella sua vita bizzarre. Ma oggi per chi voteresti tu, Luca? Oggi per nessuno. Per Calenda? Nemmeno per Calenda? Per Calenda sì. Non lo so. Io, quelli per cui voto io nelle elezioni non si presentano, dietro degli radicali. Che... Sempre radicali. Bravo, sempre bravissimo, radicali. Vedi? Rosa del Pugno, siamo della stessa area, fra del poco, socialismo, ragazzi, liberale. Dopo ottimo, la pubblicità ottimo. Ci sarà un grande scontro qui. Il grande scontro è tra il bigotto e... come dire, contro la legalizzazione delle droghe, proibizionista Gottardo e Luca Bizzarri, che mi ha chiamato espressamente dicendo voglio fargli un culo così. Questo è il punto fondamentale. Voglio farli un culo così. Io sono ovviamente dalla parte di Bizzarri, non lesinarti, non farti impressionare, Gottardo, da Luca Bizzarri, presentatore di questo. Non è tanto che mi impressioni Luca Bizzarri, dai. Ma che cazzo è questo? Ma anche fisicamente è uno che ti incute. L'ultima volta che l'ho visto a Camera Caffè a fare il sindacalista genovese, per cui cazzo vuoi roba che mi vecchia, mi, roba vecchia. Fermo, cosa fermo, vuoi che mi fermo, sono fermo, vecchio fermo, io. Fermo, un grande Bizzarri, fermo, un grande fermo, fermo. La Zanzara. Cruciani, mi spieghi una cosa, ma sì, come sì, mai quel sì, coglione di Gottardo ci tiene tanto a sparare cazzate sulla droga in questo modo? Fatto così, io sono 20 anni, sono cazzo di 20 anni che fumo tutti i giorni. Vabbè, e si sente, e si sente. Posso ritenere una persona abbastanza tu ti ritieni, come dire, arrivata. Non riesci a finire la frase. Anche sentivi che non sentiva. Ho tre lauree, un buon lavoro, non capisco perché la gente che si fuma le canne viene definita tossica da quel coglione. Da lui. Allora, ragazzi, una canna al giorno è un tossico. No, ma non dire cazzate, mamma mia. Allora abbiamo qui Luca Bizzarri, autore di un romanzo che mi invito a non acquistare, Disturbo della pubblica quiete, che è il sottotitolo della Zanzara. Luca Bizzarri, che invece è un grande, sì, tu sempre a leccare il culo agli editori. Mondadori, detto solo, non si può dire Mondadori. Ma sì, dillo, vuol dire Mondadori, dillo. Mondadori. Benissimo, detto, che è, però... Sarà mica la marchetta a dire Mondadori, no, libro di Bizzarri. No, 52 euro? 52 euro? 50. Un grande antiproibizionista. Ora, vorrei che Bizzarri facesse capire a Gottardo che in questi giorni ha detto delle grandi puttanate, caro Luca. Piccola parentesi, apro una parentesi per Luca. Mi segnalano delle amiche. Non so perché, mi mandano dei messaggi delle amiche: sono a fare l'aperitivo a casa con la ex fidanzata storica di Bizzarri. Io rispondo un po' sti cazzi, vabbè, ma chi se ne frega, cioè qual è il punto fondamentale? Ma quante sono ste fidanzate storiche? E poi no, una fidanzata storica che è solo una. Poi subito dopo risposta: ancora non ho ancora capito che cos'è il CPC. Il CPC, sempre questa persona qua, sempre questa amica ragazza di Bizzarri. No, amica, CPC sarebbe quello che abbiamo spiegato prima. No, è cazzo, CPC, no, cazzo, culo. Scusami, culo, che è culo, mi sono scordato pure io. Culo, palle, cazzo, palle, culo. Sì, cioè, sì, cazzo, palle, culo. È praticamente una specie di rimming, una specie di rimming spiegato dalla prostituta di prima. Voleva dettagli su questa cosa qua. Che ho mandato, le immagini e così abbiamo definito tutto. Allora, vuoi spiegare a Gottardo perché legalizzare la droga è cosa buona, giusta, fonte di salvezza? Ma è molto semplice, perché bisogna combattere le dipendenze e non le sostanze. Gottardo è 2 mesi che è a sbaffo in un albergo per perdere chi, no? giusto ecco. E allora è come se io dicessi a Gottardo che per risolvere il suo problema di sovrappeso bisogna vietare la farina. No, non è così, no? Esatto. Cioè, il problema è che la farina, se usata in maniera giusta, fa bene. Se usata in maniera fa malissimo. Diventi Gottardo. Però tu vuoi dire che anche qualche droga fa bene? Non ho capito. No, le droghe fanno tutte male. Il problema è che le droghe sono libere. Però bisogna drogarsi. Fanno tutte male. No. Ma tu vuoi che i ragazzini si droghino? Ma chi non bisogna drogarsi. I ragazzini già si drogano. Esatto. Quello è il problema. I ragazzini già si drogano perché la droga è assolutamente libera. Sì, è libera. La trovi ovunque. Io sono in un albergo romano. Se voglio trovare della roba in questo momento ci metto 10 minuti, se voglio trovare una canna forse ci metto molto di più. No, fermi tutti. Ma come se voglio trovare dell'eroina, sì, sono in albergo romano. Ma devo andare a casa allora io. Ma non sta a Genova questo cornuto? Cosa fa a Roma? Ma cosa fa a Roma sto cornuto? Che genere è a Genova? Che cazzo? Vieni a Roma, porti via le nostre donne, come dicono quelli sono della Lega. Anche David. Vicino a dove abita Parigi. Ma prima di tornare a casa, però ha fatto David, un ragionamento David, prima di tornare a casa chiama. Cioè, ha fatto però un ragionamento inattaccabile, cioè quello là sta da due mesi in un albergo massaggiare per ridurre il danno, il danno della droga, con la droga libera la devi solamente legalizzare e cercare di controllare. Il problema è che se tu devi risolvere un problema è meglio avere a che fare con dei malati che con dei delinquenti. Se io faccio diventare un malato anche delinquente, cioè se faccio diventare un tossico, un criminale, faccio molta più fatica a farlo guarire. Sarebbe d'accordo Gasparri, caro Luca, su questa cosa qua, come sei? Non lo so se ci arriva, però forse sì. Adesso si incazza, so già che chiama, guarda. Tu dici che non arriva a questo ragionamento, diciamo. Non è che non ci arriva, siccome Gasparri ci arriva, però... non stuzzica abbastanza al suo elettorato questo ragionamento, per cui lui non lo può fare. Cioè deve dire droga è brutto, perché sennò perde consenso. Ma tu cosa ti sei fatto nella tua vita? Adesso arriviamo al momento della confessione. Cosa ti sei fatto? Ma io ho fatto un po' di tutto nella mia vita. Cioè anche la coca hai provato? La cocaina l'hai provata? La cocaina credo che sia proprio una droga da deficienti. Cioè però l'hai provata? Sì, ma mi ha fatto abbastanza schifo. Non è L'eroina? Ho provato di tutto, diciamo. Pure eroina hai provato? Non mi sono mai fatto una pera. Però ho provato qualche oppiaceo. Ho fumato l'oppio. Le canne me ne sono fatte tante. E continui a farlo ogni tanto? No, adesso fumo l'erba. Mi piace moltissimo l'erba, quella legale. Grandi negozi che andrebbero. Sì, sì. Andrebbero appoggiati. Un ulteriore scandalo, no? 20.000 persone che lavorano, che pagano le tasse e che non sanno se la settimana prossima sono ancora aperti, perché giusto, il giorno il governo dice sì, dice no, dice boh. Per passare a un altro argomento, dato che sei qui, Gottardo non ha risposto. No, non ha risposto perché senti morito. Se non mi fate rispondere, entri sempre, rompere i coglioni, allora, stavolta Bizzarri, non entri. Bizzarri, allora tu hai detto che non bisogna combattere i malati, no? Bisogna aiutare le persone aiutare i malati. E tu aiuti i malati rinchiudendoli, come mi sono rinchiuso io qui per perdere 12 kg, rinchiudendoli in delle strutture in cui si depurano. Muccioli ha salvato migliaia di persone, Muccioli era un gigante. Per la liberalizzazione della droga, salvato migliaia di persone legate ai termosifoni. Ma di che parliamo? Perché per recuperare i tossici devi fare così. Ma che vuol dire? Tu hai detto una puttanata pazzesca prima. Tu hai detto che vanno rieducati quelli che si drogano, quelli che si fanno le canne vanno rieducati. Ma tu sei scemo. Come faceva Muccioli? Quindi perché allora tu non sei andato in un posto dove ti legano a un calorifero per non farti mangiare? Perché sono un calorifero? No, perché tu vai in un posto dove ti fanno i massaggi, no? Se ti piace il perché metodo Muccioli, sono devi reso andare in un posto dove ti legano, caro Luca Bizzarri, e ti suonano, caro se Luca non Bizzarri. Mi sono reso conto che pesare 116 kg era un problema. Ne ho persi 14. Mica ti sei fatto le gare, 102. No, non mi sono fatto le gare. Ma chi è a rischio di salute va aiutato, lo prescrive la legge, anche con dei trattamenti sanitari obbligatori. Se uno è tossico dipendente, dovrebbero fargli il TSO a un tossico dipendente. Un TSO dovrebbero fargli in clinica. Uno che mangia tanto come te, mangiando tanto, commettesse un reato. Pensa quanto sarebbe più difficile curare per il suo bene. Vabbè, sarebbe auspicabile che lo mettessero in clinica. Ma quando mai? Ma tu li vuoi in galera, non in clinica, Gottardo. Io li voglio recuperati. Non è un crimine, ma vanno recuperati in qualche maniera. Anche con la forza. Tu li vuoi in galera, io li voglio in clinica. Perché un ragazzetto non mettiamo quelli sovrappeso in galera? Perché non li mettiamo? No, li mettiamo in clinica anche forzatamente. Perché non mettiamo in galera i malati di figlia, per esempio? Mettiamoli in galera, perché così risolviamo il problema. Scusami, perché la figa non fa male alla salute. Allora, Luca Bizzarri, io ho visto gente molto più rovinata per la figa che per la droga. Questo pure è vero. Scusami un attimo, Luca. Però tu, quando io stavo scrivendo il libro, mi hai mandato una frase fantastica. Che io poi non so se ho messo, questo però me lo devi dire. Questa me la devi confessare. Sì, sì, sì, sì, no, sì, no, questo no, devi però non effettivamente. Non ero io. Ogni volta possibile che tu mi hai rovinato, ha detto, tu mi hai rovinato. Ogni volta che è successo una volta. Allora... di vedere un quello che voi giovani chiamate squirting. Ma vaffanculo, va, dai. Vecchio porco, fa in quel momento lì, proprio nel momento in cui questa signorina stava squirtava facendo quest'atto. Sì. A me è venuta in mente la tua faccia e ho pensato che ero rovinato. Che avevo vinto io. Brutta roba. Io ho detto: hai vinto te, mi hai completamente rovinato. La prima e forse unica volta che qualcuno ti ha squirtato in faccia, no, hai visto la faccia di Cruciani. Allora, ho visto la tua faccia così. Scusami, ma la persona di qui sopra, tua ex fidanzata, caro, è una che... tutti. Carola Rackete, fermata in Germania, si opponeva al taglio di una foresta. Ma volevo darvi questa notizia. Ma no, è importante. Frega. Ma non ce ne frega un cazzo, ma chi se ne frega di Carola Rackete, per me può andare anche, cioè può finire in Alaska, no, non so. No, perché però... mai, poverina? Perché? Scusami, a te, per concludere, nella vecchia diatriba che non ti ho mai chiesto pubblicamente, figa pelosa o figa non pelosa, dove sei indirizzato tu, Luca? No, per capire. Sono dell'altra parrocchia, io. Cioè, quella del petto di pollo sei del petto, sì, di pollo, sì, lo so. Temevo questo, conoscendo anche alcune tue fidanzate che penso che... Ma cosa vuol dire questo? Perché... Ma chiede, sai tu che dettagli sono? Perché lo intuisco, qualche volta si capisce anche dalla faccia, non hai capito? Anche io sono talmente malato che si capisce anche dalla faccia, oltre che dall'età. Malato, che tu sia oltre malato, anche, non c'è ombra di dubbio. A parte che quelle giovani, la maggior parte sanno, hanno la figa completamente rasata, per cui di che stiamo parlando? Questo è sicuro. Ma è un tema da... Ma non può essere un tema da sole 24 ore questo qui. No, comunque sono d'accordo. Per una prima volta in vita mia sono d'accordo con Parenti. Ma questo lo sappiamo però, questo non lo sappiamo. Non può essere un tema. Senti, tu perché che non voteresti mai oggi? Cioè, adesso diciamo la verità. I grillini non li voteresti mai. No, diciamo, ma che i grillini. Mai grillini. Pure Salvini mai. Pure Salvini mai. Vedi che andiamo a registrare. Poi il resto è tutto possibile, no? Il resto è tutto possibile. Ma Fratelli d'Italia anche, non credo, dai. Non lo so, la Meloni potrebbe. No. Anche però ma posso dirti una cosa, posso confessare una cosa, che non... cioè una volta voleva incontrare Borghezio, si è sempre fissato con me. Ma quello perché ha il gusto della commedia, dice, fammi certo incontrare Borghezio, dico, qualche ma per la perversione per la perversione dei mostri forse, o no? Ma sì, no, perché ci sono, a me la politica interessa pochissimo, la comunicazione mi interessa tanto, e ci sono alcuni mostri come chiavi tu che sono da studiare, no? Senti, cioè, io più che Salvini vorrei conoscere Morisi mi farebbe piacere conoscerlo, perché vorrei capire come ragiona e se ragiona. Salvini, volte, no, se dovessi scegliere andare a cena fuori con Morisi oppure con... Beh, è più interessante Morisi, indubbiamente, di Salvini, sì, certo, non c'è dubbio. Morisi mi interessa perché è un comunicatore, quindi mi chiama. Ma è il lato oscuro della forza, poi, scusami. Meglio andare a cena con Parenzo o con sua moglie? Vabbè, questo dai, ovvio, ma scusa, questo lo direi anch'io. Non è mai successo con nessuno dei due, mi piacerebbe andare insieme a tutti e due, se poi uno dei due deve stare a casa a tenere i bambini, meglio che partiamo. Però scusa, posso dirti una cosa, che i piedi di Natania non sono però granché. Ma adesso io non entrerei in questo tema, chi se ne guarda si incazza da morire. Tu non sei un pedofilo? Non sono un pedofilo, anche se la mia ex fidanzata storica di cui avete parlato voi, io, aveva dei piedi bellissimi, Ma chi molto è la fidanzata storica? Non lo so, non so chi queste cose. Andate a vedere, adesso è inutile, la metto in mezzo, se no metto in mezzo la persona che mi ha mandato il messaggio, eccetera, eccetera. Era tipo prima in classifica in quei siti di pervertiti, sai? Esatto, dei piedi. Aspetta che andiamo a vedere subito. Tu non guardi i piedi, cioè, se io, a me per esempio ogni tanto non posso guardare i piedi, altrimenti mi si ammoscia, cioè tu invece i piedi non li guardi, te ne sbatti i coglioni. Ma sei geloso o no? Cioè, se una ti dice mi sono trombato un altro, la lasci subito o no? O sei contento? No, né uno né l'altro. Io sono per la libertà, però anche il rispetto. Cioè, se una si fa i cazzi tuoi e non me lo viene a dire, sono più contento. Una coppia aperta non la concepiresti come esempio nelle mie... Io già faccio fatica a concepire una coppia, per cui la coppia aperta non lo so, io sono un po' sei un po' possessivo, no? Vi dico questo, no, che per se niente. Se uno scrive Luca Bizzarri fidanzata, vengono su Google, viene fuori fidanzata 2020 e poi fidanzata attuale. Cioè, vedi solo questo, Google. Attuale. Ma sta solo da una vita, si è ritirata a vita privata. E non capisco perché Google dice, se tu mi dici Luca Pizzata è fidanzata, la masturbazione è una grande fuga, ma una grande realtà, è la nostra grande salvezza, non ce n'è niente. È una bellezza, cosa vuol dire? Quello si sta bene. Quella si sta bene. È bello, è molto bello. Grazie Luca, grazie. A voi grazie. Ragazzi, buon lavoro. Grazie. Non comprate mai questa roba, non la comprate mai. No, compratelo. Nudi, dove c'è un bel culo. Un bel culo dietro in primo ma piano. Ma uno può spendere 90 euro per provare un libro della nave di Teseo che si chiama Nudi? No, 90 euro. Volevo dire una cosa, Parenzo, puoi dire a Natania se mi manda la recensione? Perché io sto aspettando. Va bene, farò anche questo. Lo leggerò così, sì. Però mi piacerebbe sapere in privato. Cosa in privato, magari, sai, sì, magari poi ne parliamo di fronte a un bicchiere di vino. Capito? Sì, tutti e tre, non c'è dubbio, volentieri. Molto fermi volentieri. Tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.